Il brutto d'Italia secondo il FAI. La segnalazione di oggi riguarda un paese dell'Abruzzo, in provincia di Chieti. Si tratta di Bucchianico, paese di origine medievale immerso nelle colline, in una bellissima zona panoramica. Il problema è che proprio nel centro storico di Bucchianico si trova un vero e proprio ecomostro, chiamato il Palazzaccio, costruito nel 1973 al posto di un palazzo cinquecentesco, oltretutto proprio a ridosso di un'antica chiesetta. Il Palazzaccio è ora completamente inutilizzato ed è stato acquisito dal comune. C'è un dibattito aperto su quello che dovrebbe essere il recupero o la risistemazione dell'edificio. Tra le soluzioni proposte ci sarebbe l'eliminazione di due piani della struttura. La delegazione FAI di Chieti ha lanciato un appello per chiedere la totale cancellazione dell'ecomostro. Se vuoi vedere ciò di cui parliamo, vai sul sito radio24.it, dove potrai scoprire come partecipare all'iniziativa del FAI, i luoghi del cuore.